salutiamo la serata, vi ringrazio di essere qui con noi per questa interessante serata che vede come protagonista la professoressa Nives Zaccaria, accompagnata da Don Paul Renner. Ecco, Nives Zaccaria, oltre ad essere insegnante presso le scuole e licei della nostra città, della nostra provincia, si dedica da parecchio tempo con grande successo all'attività di giornalista e in particolare la ascoltiamo anche sulle frequenze di Radio Sacra Famiglia, soprattutto all'interno di un contenitore Papyrus che si dedica appunto all'attività culturale, editoriale, ai libri. Per noi è molto importante anche perché lei per prima scrive libri, ne abbiamo qui portati tre, il primo appunto Cammini di guarigione, testimonianze di vita nuova, poi alcuni anni fa l'abbiamo presentato in biblioteca in via Mendola nel tempo della grazia e oggi siamo qui per presentare il nuovo libro Donna fra genio e carisma, un titolo direi molto avvincente, me lo permette? Perché il tema anche del ruolo della donna, non solo nella società, ma tanto più all'interno della Chiesa, è un tema molto dibattuto, attuale, e si declina e si coniuga con altre situazioni della nostra vita quotidiana e non è ancora stato, insomma, diciamo, completamente esaurito come campo di indagine. Quindi stasera saremo molto curiosi anche di sentire dalla viva voce della professoressa Zaccaria quello che è il risultato, o in parte, ecco, perché poi vi invitiamo a leggerlo, ecco, quello che viene riportato nel suo ultimo libro. Abbiamo con noi Don Paul Renner, che ringrazio tantissimo. Si tratta anche di una collaborazione con l'Istituto di Scienze Religiose e con la Biblioteca San Girolamo, con la quale siamo in contatto e speriamo poi di continuare anche questa bella collaborazione utile e tutta tesa alla così diffusione di nuove conoscenze, di nuove possibilità. Ecco, non chiudiamoci nel nostro piccolo seminato, ma la cultura passa proprio attraverso all'idea di concedersi e di concederci ogni giorno un piccolo cambiamento. Ecco, non aggiungo altro, vi ringrazio tantissimo del fatto che ci diate una mano in questo programma e progetto di diffusione della cultura, di nuove opinioni, di nuovi contenuti e una buona serata a tutti voi. Scusatemi, ma ho due comunicazioni di servizio. Le prossime due iniziative saranno dedicate alla ricerca in Alto Adige, presenteremo due tesi di laurea premiate nel 2015. Il complesso parrocchiale di Cristo Re a Bolzano, in data 9 giugno, al Cristallo, e invece la ricerca in Alto Adige, la Valdega, strade interrotte, questo sarà il 6 giugno qui a Trevi. Se avete bisogno di ulteriori informazioni passate in biblioteca o guardate il nostro sito. Grazie e buona serata anche a voi, grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, sono contento di essere qui a partecipare alla presentazione dell'ultima fatica editoriale di Maria Nives Zaccaria, con la quale collaboro volentieri e proficuamente da anni a Radio Sacra Famiglia, di cui è anche vice direttrice, perché la Chiesa sa riconoscere dove c'è genio e dove c'è carisma. E questo che sia dell'uno o dell'altro genere, il genio e il carisma vengono riconosciuti e valorizzati. Incontravo poco prima Irene Argentiero, direttrice del settimanale diocesano Il Segno. Soprattutto la nostra chiesa di Bolzano Bressanone è molto aperta. Parlavo ieri con un mio ex collega di studi che vive a Roma, che ha frequentato con me la Gregoriana e che strabuzzava gli occhi quando gli spiegavo che da noi allo studio teologico di Bressanone vi sono delle donne che insegnano teologia ai futuri preti, e quindi già le sono usciti gli occhi di 5 centimetri. E allora mi ha fatto una controdomanda per essere sicuro che non fossimo proprio nel baratro dell'eresia. Dice: ma non insegnano materie teologiche? Come non dico? Nuovo Testamento, poi anche pedagogia, didattica. L'ho salvato dall'infarto, non con respirazione bocca a bocca, ma dicendo: su, vedrai che anche a Roma prima o poi sarà così. Ma l'ho visto un po' preso dalle strane vertigini e così via. Sicuramente il ruolo della donna è molto interessante nella Sacra Scrittura, perché Israele non era un popolo che discriminasse le donne come altri popoli circostanti. In Israele la donna aveva una sua posizione sociale riconosciuta, aveva la possibilità di possedere beni, di firmare o meno il contratto matrimoniale, di chiedere eventualmente il divorzio, non solo l'uomo. Sicuramente qualcuno dirà, ma io ho letto anche delle cose diverse. È vero, perché un conto è quello che prevede la legge e un altro conto è quello che poi gli uomini fanno della legge, gli uomini inteso come Menschen, ma anche gli uomini inteso come Männer. Quindi un conto è l'impianto globale di Israele, un conto anche quello che è stata poi l'applicazione di queste visioni del rapporto uomo-donna. Anche la Chiesa delle origini si mostra molto aperta alla dimensione femminile, ricordiamo il passo, direi, di svolta epocale di Paolo in Galati 3:28. In Cristo Gesù non c'è più uomo né donna, giudeo né greco, schiavo né libero. All'osservazione superficiale si potrebbe obiettare, ma queste distinzioni rimangono, persistono, consistono e insistono e non desistono. Però ben guardare, in Cristo Gesù non è più così importante essere uomo o donna. È una distinzione reale, ma non deve essere una distinzione sostanziale. È una distinzione che non può portare un giudizio di valore, altrimenti si sarebbe sbagliata la prospettiva. Perché? Perché Gesù riprende quello che è il messaggio originario del Dio creatore, maschio e femmina li creò. Creando l'uomo a propria immagine e somiglianza, li creò uomo e donna, perché ci fosse una reciprocità. Tutti aspetti che Nives recupera nel suo agile volume, dove a mio parere mostra finalmente una donna che parla di donne alle donne e agli uomini. Perché molto spesso sono gli uomini che parlano sulle donne agli altri uomini, no? E invece Maria Nives crea con questo libro un'altra prospettiva di dialogo, una donna che parla da donna sulle donne, alle donne e agli uomini, quindi con una competenza che si è meritata, direi, sul campo, che si è meritata con anni e anni di servizio ecclesiale, di militanza anche, come molti sapranno, nel movimento del rinnovamento dello spirito, e una competenza che Maria Nives difende con garbato piglio femminile. C'è ancora chi parla, riferito alle donne, di sesso debole. È debole di mente chi usa ancora queste definizioni downtown, dei tempi in cui Dorian Gray era una bambina. E il sesso debole manco per il cavolo, perché in genere con i preti non ci sposiamo per non lasciare una vedova, così risparmiamo questo dolore a una donna, e di solito sono più forti gli uomini nel momento del parto, nel resistere alla sofferenza, alle prove della vita, alla capacità di sacrificio, il multitasking, la capacità di svolgere infiniti lavori. Che noi uomini invece un lavoro alla volta è già troppo, no? E se possiamo finirlo siamo contenti anche di riposarci, no? Loro, voi, siete instancabili, siete delle macchine da guerra in senso buono, si intende, però quando vi mettete a fare guerra siete demolitrici, distruttrici, peggio dell'ISIS. Allora, chiudo questa pagina per tornare a dire che questo libro di Maria Nives smuove un po' le acque. È stato scritto mentre era in corso il sinodo diocesano e ne ha in parte anche profeticamente anticipato alcuni punti salienti, alcuni frutti che sarebbero venuti. Quindi ancora in corso d'opera lei ha già scritto quello che sarebbe stato, una dimensione profetica di chiaroveggenza di Maria Nives, no? Ebbene, è un libretto che si legge bene e che fa pensare, perché è articolato in una riflessione teorica fondata nei documenti, dato biblico, documenti del concilio e via dicendo, ma che anche fa parlare altre donne. Maria Nives non vuole essere una voce singola che grida nel deserto, vuole e riesce a dare voce a un piccolo corretto femminile. Ricordo quando uscì il Catechismo della Chiesa Cattolica nel lontano 93, ce lo presentò a Bressano nello studio teologico la preside della facoltà teologica di Innsbruck, la dottoressa Udalis Pissarek, nel frattempo purtroppo mancata, la quale disse: aprendo il catechismo speravo di sentire un coro di voci miste, e invece era un monotono coro maschile. Ecco, dobbiamo, e penso che il contributo di Maria Nives sia questo, riconoscere che il passato è quello che è, ma come mi diceva un amico mandandomi una slide su Facebook un paio di giorni fa, si vedeva un uomo che si rovesciava un barattolo di conserva sulla schiena e diceva: dobbiamo lasciarci il passato alle spalle, no? Si versava questo barattolo di passato giù per la schiena. Dobbiamo renderci conto che il passato c'è stato, non possiamo nasconderci dietro il dito, ma dobbiamo cercare di muoverci verso un futuro diverso, dove veramente non ci siano più queste becere distinzioni uomo, donna, scalini e livelli diversi e così via. Nella Chiesa, se non ci fossero le donne, potremmo chiudere bottega. E anche la presenza in sala di due soli maschietti, oltre a quello qui per servizio, dimostra che sono le donne anche spesso le colonne della cultura e così via. Ciò premesso, passo il microfono idealmente a Maria Nives perché ci racconti un po' lei la sua creatura, questo suo ultimo parto, e poi la fermerò quando tracima troppo, e vi ricordo che potete anche intervenire per domandare chiarimenti, approfondimenti, per esprimere una curiosità o anche per condividere un'esperienza che avete fatto, e a te la parola. Allora, grazie di essere qui e buona serata a tutti. E mi veniva in mente, mentre ascoltavo Don Paolo, a parte i molti complimenti che non credo di meritare, però mi fanno piacere, uno dei primi motivi che mi hanno spinto a scrivere questo libro, o meglio a fare questa ricerca, non sapevo se avrei scritto o non avrei scritto, e il fatto che quando io sono nata, mio padre ha avuto una grande delusione, nel senso che si aspettava un figlio maschio. Prima di me era nata mia sorella e va bene una femmina, ma la seconda, ancora femmina, lui ci è rimasto veramente male. Poi si è pentito perché era un uomo straordinario, molto buono, affettuoso, e quindi ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare. Però a me questo fatto, quando lo raccontavano, colpiva sempre molto, ed è stato proprio, sono stati i primi anni della mia vita, per così dire, che mi hanno portato a riflettere su questo rapporto uomo-donna e perché la donna fosse, creasse un problema se nasceva femmina, insomma. Poi sono andata avanti e come insegnante ho dovuto anche toccare questi temi nell'insegnamento, insegnavo storia italiano e quindi ho seguito sempre questa questione femminile. Lo stesso all'interno della Chiesa, e ho toccato con mano appunto certi aspetti della minore considerazione delle capacità del pensiero della donna. Questa minore considerazione si manifesta anche nel fatto che quando si incontrano due modi di pensare, uno maschile e uno femminile, prevale sempre o quasi sempre quello maschile, a meno che non ci sia un uomo di buona volontà. Per cui io mi sono trovata anche a non sviluppare sufficientemente il senso di autostima, e questo mi è servito come esperienza perché mi ha aiutato a capire tante altre donne, quindi a dare voce anche a loro, a cogliere la sofferenza che c'è in molte di noi, insomma, perché chiaramente non ha una giustificazione. E con il sinodo lo stimolo a occuparmi decisamente di questo tema si è fatto molto forte, qui posso ringraziare pubblicamente, lo faccio anche nell'introduzione del libro, il vescovo, perché sono andata da lui e gli ho detto della mia intenzione e gli ho chiesto se cosa pensava di questa idea, e lui mi ha incoraggiato dicendo che è convinto che anche questo modo di riproporre la questione femminile debba partire dalle donne. E qui ricordo anche una frase di Papa Benedetto XVI in un'intervista prima di andare in Germania, Gli era stato chiesto appunto cosa pensava della rivalorizzazione del ruolo femminile e lui rispose che le donne con la loro potenza spirituale sono in grado di trovarsi da sole gli spazi per esercitare, per mettere a servizio insomma della comunità le loro qualità. Ecco, mi aveva colpito questo tema, potenza spirituale, e mi chiedevo cosa potesse essere. E quindi ho iniziato questa ricerca guardando innanzitutto il pensiero della Chiesa, perché appunto mi interessava soprattutto il pensiero della società civile, del femminismo, delle molte articolazioni del femminismo. Più o meno lo conoscevo. Il pensiero della Chiesa mi ha veramente colpito. Parte prevalentemente dal Magistero, non è un pensiero diffuso. I documenti del Magistero non sono molto conosciuti. Io ho sempre avuto la passione di leggere, per cui me li sono sempre letti tutti. E qui emergono tutte le spiegazioni, quelle che io chiamo le buone ragioni, per riconoscere la parità di dignità fra l'uomo e la donna. E questo naturalmente mi ha fatto molto bene, perché ho cominciato a rivedere anche me stessa, il mio modo di relazionarmi con me, il mio modo di giudicarmi. Posso confidarvi che ci sono stati dei momenti nella mia vita che ho pensato, mi sono chiesta sinceramente, ma io sono intelligente oppure no? Però qualcuno mi diceva, beh, ti sei presa una laurea, come l'hai presa? Però insomma questi problemi venivano, pensavo di essere sola in queste condizioni, invece ho scoperto che siamo in tante. E allora questo pensiero della Chiesa, che ha come punto di riferimento principale l'enciclica La dignità della donna di Giovanni Paolo II, parte proprio dalle origini e dice che bisogna rivedere nell'ottica naturalmente cristiana di fede la creazione dell'uomo e della donna. Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò. Quindi in questo, adesso non posso naturalmente approfondire, però già qui c'è la ragione principale del nostro essere uguali, maschio e femmina. Però l'essere umano comprende sia la dimensione maschile che quella femminile. E l'altro punto di riferimento che dà Giovanni Paolo II riguarda la vita di Gesù, i modi con cui Gesù si è incontrato, si è relazionato con le donne, in un tempo in cui c'erano ancora, come diceva Don Paolo, dei comportamenti che non erano a favore della donna. Però Gesù aveva una carica tale di libertà che è sempre riuscito ad andare controcorrente. E quindi il cammino spirituale che io ho potuto fare di crescita in questa corrente del rinnovamento nello spirito mi ha permesso di vivere un rapporto spirituale, questo rientra nella dottrina della Chiesa, lo premetto, mi ha permesso di fare un cammino di emancipazione alla scuola di Gesù, proprio alla scuola di Gesù, vedere questo suo comportamento con le donne che incontrava e che poi rispecchiavano certi miei problemi. Questo mi ha aiutato molto. E allora a questo punto mi sono detta, ma qual è la cosa nuova che dovrebbe emergere oggi della donna che possa permettere sia a lei di emanciparsi veramente senza cadere in certe soluzioni, diciamo, che non sono dignitose, rispettose del nostro modo di essere, neppure dell'uomo. Che cosa può essere che la donna deve ancora far vedere di sé, deve ancora manifestare? E allora la risposta mi è venuta appunto dall'insegnamento, dal Magistero della Chiesa. Le parole genio e carisma non sono mie, ma sono usate proprio dai papi. E primo è Giovanni Paolo II che parla di genio femminile. Allora qui tutta una ricerca, cos'è questo genio femminile? E noi a volte diciamo di una persona è un genio, no? E che cosa sono? E allora Giovanni Paolo dice è quel talento naturale della donna che fa sì che in certe situazioni lei riesca a trovare soluzioni che magari altri non trovano. Sono le sue qualità naturali, certi comportamenti che non sempre sono riferiti all'essere madre, a essere donna di casa, sono aperti anche alla vita, al servizio, al lavoro nel mondo, no? Quindi questo genio femminile è stato ripreso recentemente da Papa Francesco, che ancora dice bisogna lasciare spazio al genio femminile. E allora ancora lì a interrogarmi. E lui dice che la donna ha tanti doni che oggi come oggi devono venire fuori perché possono aiutare anche a livello sociale. La donna è portata a prendersi cura di chi è debole, è portata ad accogliere meglio le persone, è portata alla riconciliazione, sanare ferite. Ecco, sono queste qualità che noi abbiamo in modo più evidente dell'uomo. Al contrario, l'uomo ha il suo genio maschile. Io quando ho scritto il libro ed è stato diffuso nel mio movimento, gli uomini mi dicevano l'anno prossimo devi scrivere il genio maschile. Dico, ma io questo mi dovrò far aiutare perché lo conoscete meglio voi di me, no? E quindi questo è il genio. Poi c'è anche, nel mio movimento facciamo anche un cammino di riscoperta dei carismi. E i carismi non sono nel senso laico della parola, ma sono doni fatti dallo Spirito Santo per il bene comune, per far crescere la fede nel popolo di Dio, per aiutarci e così via. E allora il carisma della donna dovrebbe essere anche un particolare dono che permette alla donna di contribuire nella Chiesa, al bene della Chiesa, alla crescita. Ecco allora questo titolo, donna tra, un po' possiede questo genio femminile, un po' il carisma, e quindi viene fuori un'idea che tocca alla donna adesso muoversi in questo ambito, fra questi doni, tocca a noi. Io ho cercato di farlo, per cui l'impegno che vedo che mi ha guidato un po' per tutta la vita, proprio partendo da quella confidenza che vi ho fatto prima sulla mia nascita, è proprio, lo sento come un dovere di diventare veramente donna. Se sono nata femmina devo diventare donna, ma donna nella logica, nel pensiero, secondo il progetto di Dio. Allora posso essere utile, allora posso dare un aiuto anche agli altri. Sicuramente prima Maria Nives ha usato un'espressione che può essere fraintesa: l'uomo e la donna sono uguali, ha detto. Intendeva sì, ovviamente per quanto riguarda la dignità e via dicendo, però non siamo uguali, assolutamente no. E secondo me è bene, perché so che anche il pensiero di Maria Nives, ribadirlo: siamo diversi, ma appunto relativi l'uno all'altro, ci interfacciamo per completarci e abbiamo approcci diversi dal punto di vista fisiologico, psicologico, mnemonico e via dicendo, e se trascuriamo queste differenze è ancora più difficile capirsi. E naturalmente parliamo linguaggi diversi, abbiamo sensibilità diverse, il che non vuol dire che l'uomo urla e batte il pugno, la donna piange o sta zitta, no. Abbiamo sensibilità diverse e solo prendendone atto possiamo avvicinarci e cercare il più possibile la sintonia che non sarà mai totale, non sarà mai assoluta. Quando anche noi nella dinamica del sacramento del matrimonio diciamo, riprendendo la parola di Dio, i due diverranno una cosa sola, si intende in un senso sì, affettivo, di intenzioni, simbolico, ma non in un senso letteralmente biochimico. Questo non è possibile. E io ci tengo per dire un particolare piccolo, quando assisto e benedico le nozze di una coppia, chiedo se vogliono portare la candela nuziale, no? Molti dicono di sì, altri dicono di no. A quelli che rispondono affermativamente, io chiedo, ma me la portate giusta o falsa? Come falsa? No? La candela nuziale falsa è quella che è rappresentata in un bel corpus con un unico stoppino. È un'immagine orribile, come se nel matrimonio uno dei due dovesse scomparire. La vera candela nuziale ha due stoppini che si illuminano, si riscaldano a vicenda. I due diventano una cosa sola, diciamo, nel condividere l'insieme del cammino, alcuni passi determinanti, ma non diventano, non si fondono in un unico ente nuovo. Sarebbe qualcosa di veramente contro natura. I due mantengono questa diversità che però crea la bellezza dell'incontro. E quindi il genio femminile e il genio maschile si trovano perché si arricchiscono a vicenda. È interessante dialogare con delle donne, anche per noi preti, perché ti portano tutto un altro approccio alla vita. Io spesso dico, quando entro in una chiesa mi accorgo subito se dell'arredo e degli elementi liturgici si occupa il parroco o un gruppo di donne. C'è tutta un'altra finezza, un altro garbo, un'altra attenzione al particolare, alla pulizia, all'armonia, se sono le donne. Il che non vuol dire la donna stia in casa e pensi alle faccende domestiche, non fatemi dire cose che non penso, che non ho detto, ma vuol dire che ci sono delle sensibilità diverse. Anche sul lavoro, dispiace dirlo, essendo io rappresentante dell'altro genere, ma le donne sono molto più precise in linea di massima, molto più precise. Tedesco tirolese direbbe Finkelscheißerin, cioè caca puntini tante volte. Noi uomini compiliamo un modulo, ma sì, ma dai, insomma, e invece la vigilessa andava a 52,5, quindi è superato il margine di tolleranza, eccetera, eccetera, eccetera. Una precisione estrema che completa la nostra faciloneria maschile. Cantamina, gli uomini sono così fragili, pieni di problemi, di dubbi, tenuti insieme dall'orgoglio, è l'orgoglio che li tiene insieme, no? Noi donne siamo più sostanziose, ritorno sull'idea del sesso forte, anche se ci dispiace doverlo mettere come maschietti, no? Ecco, allora, grazie per questa precisazione. Effettivamente io nella prima parte della mia testimonianza volevo sottolineare appunto il cammino di emancipazione come prima appunto conquista di una uguaglianza, di una parità, prima di tutto dentro di noi come mentalità, e imparare e riuscire a pensarmi al femminile e non attraverso gli occhi dell'uomo, che naturalmente mi valuta da uomo, non mi può valutare, perché se non è una donna non può valutarmi in questo modo. Quindi è un primo aspetto dell'emancipazione, che è comune anche al femminismo laico. Il secondo aspetto è proprio l'altro, no? Che riguarda appunto la differenza. E questa differenza è un segno di inferiorità oppure è una qualità? Ecco, sempre nella dottrina della Chiesa, nel Magistero della Chiesa, questa differenza è allo stesso livello ed è una ricchezza. Le due differenze dell'uomo e della donna si devono incontrare per integrarsi ed arricchirsi. È chiaro che se, soprattutto nella cultura dominante, e questo vale anche nella Chiesa per molti secoli, no? A un certo punto è prevalsa l'idea che l'uomo è più portato al ragionamento, agli studi della teologia, eccetera, eccetera, e la donna più ad altre cose, la differenza diventa, insomma, sbiadisce, si riduce, non è più determinante, non è più da valorizzare. Cos'è successo nel mondo laico? Un po' in tutto il mondo, ma soprattutto nelle zone collegate all'Occidente, è successo che, non potendo risolvere il problema della differenza, si è arrivati a negarla con il pensiero gender, un pensiero che dice basta parlare di differenza. La differenza è una cosa che è stata usata dalla cultura per promuovere la cultura patriarcale, quella cultura che ha delle radici molto lontane nel passato, una cultura che relega la donna al privato mentre inserisce nello spazio pubblico l'uomo, per cui l'uomo fa tutte determinate attività, determinati lavori, di conseguenza arriva ai ruoli dirigenziali, la donna sta buona in casa perché è molto importante anche il suo lavoro, però insomma non potrà, e ha portato a questo contrasto. Mi ha colpito recentemente, parlando con uno studente a Bologna che ha fatto e tornerà in America per studiare, che gli è arrivata una serie di documenti che gli chiedevano di rispondere a determinate cose. Voi sapete che in ogni documento c'è scritto anche, oltre al nome, femmina, maschio, no? Ecco, in questo elenco c'erano sei forme e la richiesta era genere, e partiva gay, lesbica, transessuale, omosessuale, così, alla fine maschio, femmina. E lui era sconvolto, che dice, ma tu dimmi, e cioè questa idea ormai è diffusa, e di conseguenza io sento ancora di più, appunto, la necessità di chiarirmi le idee e di trovare le buone ragioni per sostenere la differenza, per accettarla, per trasformarla in ricchezza. E allora qui torna una linea del pensiero cattolico che adesso si sta confermando, prima era un po' più messa in discussione, cioè uomo e donna sono chiamati oggi come oggi, e hanno questa responsabilità, a costruire delle relazioni, a relazionarsi, perché l'uomo nel pensiero di Dio è portato alla relazione. Questo lo puoi spiegare meglio tu di me, con le parole più precise. Diciamo che almeno nella prospettiva cristiana il Dio unitrino è comunione di tre persone che costituiscono un'unica realtà divina, ma diversificata, quindi una comunione diversificata, una diversità riconciliata. Io spesso dico che se sapessimo valutare a fondo questo modello nella nostra terra di principalmente tre lingue, tre etnie fondamentali, sarebbe una grande pista di speranza, riuscire a dire siamo diversi ma facciamo parte di un tutt'uno, e come sia importante prendere conto dell'esistenza dell'altro come costitutiva della mia. Un pensiero sviluppato dal personalismo nel Novecento, Emanuele Levinas soprattutto, Totalità infinito, in cui sostiene se non ci fosse il tu non potrei trovare il mio io, se non mi confrontassi con l'altro non scoprirei la mia identità. E purtroppo a volte succede anche fatti di cronaca orribili, ne abbiamo sentiti due anche ieri e oggi, di donne massacrate perché l'uomo non sopporta di sentirsi dire no, di sentirsi dire io ho la mia volontà, il mio desiderio, tu non fai più parte della mia vita, eccetera. Quindi l'uomo sopprime la donna, a volte in maniera truculenta, ma in questo modo sopprime una parte di sé, la parte umana, la parte più vera, e lascia uscire la parte di bestia che c'è in ciascuno di noi, purtroppo, la parte deteriore dell'animale, e qui c'è molto da fare nel, secondo me, a due livelli. Primo, far sì che le donne arrivino a maggiore autoconsapevolezza ed autonomia, che non è quella del femminismo, rivendicare fenomeni, manifestazioni in piazza, violenze e così via, che ho vissuto a Roma negli anni 80, inizio 90, così. Ma d'altra parte anche la consapevolezza maggiore di dover sostenere una affermazione serena e spontanea della donna nella società. Come si fa a ragionare ancora in termini di quote rosa? Mi sembra di sentir parlare di riserve indiane e di posti di lavoro riservati ai portatori di handicap. Queste quote rosa sono anche colpa vostra, femmine, perché se voi continuate a votare per gli uomini, non potete poi lamentarvi che voi restate indietro. Lasciate che vi critichi pesantemente su questo punto, perché se voi non credete alle donne, perché ci dovremmo credere noi? Quindi svegliatevi, votate femminile, organizzate e parlate. Al sinodo diocesano le donne sono state furbe, ben organizzate e potenti. Si incontravano, se la discutevano e arrivavano in sinodo con firme, con voti, con proposte, e sono riuscite a far passare molte cose. Perché? Perché la Chiesa, che se ne dica, è molto più democratica di quanto voglia far credere di essere la società civile. La società civile professa e sbandiera che l'uomo e la donna hanno parità di diritti, ma allora perché c'è la commissione per le pari opportunità? Perché esiste questa commissione che cerca di far passare questo concetto delle pari opportunità che ancora non è maturato, condiviso, accettato da tutti, no? Quindi donne, maggior consapevolezza. Ma nella società bisogna fare anche qualcosa, e qui bisogna appellarsi alle famiglie, alla scuola, anche alla Chiesa, per educare gli uomini a non fare più i padri o mariti padroni, perché ancora questo schema di rapporto è duro a morire. Ancora c'è un maschilismo che viene, ad esempio, continuamente promosso dalla pubblicità. Io faccio un grosso ragionamento con i giovani, dicendo: ma vi rendete conto che ancora la pubblicità denigra la donna, la strumentalizza, no? Ancora lo strumento del piacere che attira l'occhio e così via, e vi rendete conto che ancora passa l'idea dell'uomo forte, lo sciupa femmine, no? Lo sciupa femmine, per carità, è roba dei tempi del film in bianco e nero, ancora dovremmo esserci evoluti, però purtroppo, mentre le donne parlano molto tra di loro, a volte anche troppo, parlano molto tra di loro, si confrontano, si scambiano, cioè noi uomini parliamo più di motori, di sci, di sport, di caccia, di politica, che non di noi stessi. E bisognerebbe trovare, magari voi donne, prendetevi il tempo di parlare agli uomini, di catechizzarli un po', di insegnarli a ascoltarsi, ad ascoltarvi, a rispettarvi e così via. C'è molto da fare, perché l'uomo spesso cade in parole violente, denigratorie, in atteggiamenti ancora peggio, addirittura mortali, perché è immaturo ancora su certe cose. Si sente inferiore alla donna in tanti punti, e allora, diciamo così, ovvia la sua inferiorità ricorrendo a quello in cui c'è, nella violenza. Nella forza brutta l'uomo ancora è superiore alla donna, e quindi usa la sua arma segreta, che però è la clava di Fred Barney e così via, la clava dell'uomo dei tempi di Ezio. Non dobbiamo più usare questa clava, ma c'è un lavoro da fare di educazione dei cittadini e delle cittadine. Perché altrimenti resteremo su stili di relazione che sono stili ancora che la storia dovrebbe aver superato abbondantemente. E allora io continuerei con questa proposta. È una proposta che Papa Francesco avanza ogni tanto. Quello che colpisce di Papa Francesco è che sa dire delle cose che che ti convincono. Non fa un discorso ampio, completo sul determinato tema, però sulla donna lui è tornato tantissime volte. Anche nell'esortazione La gioia del Vangelo dedica due paragrafi, sono le parti più lunghe dei discorsi che fa. Ha dedicato due catechesi in piazza San Pietro, però poi dice cose, ecco, e lui appunto parla di una sfida. Il problema della questione femminile oggi come oggi è una sfida. Naturalmente questa sfida la devono cogliere le donne prima di tutto, no? E in che cosa consiste questa sfida? Riscoprire e quindi ricostruire delle relazioni sane con l'uomo, perché altrimenti ne va della pace sociale sicuramente, ne va della pace in famiglia o nelle relazioni sentimentali, ne va dell'educazione dei figli. E allora da dove partire? Io ho preso appunto seriamente anche questo discorso. Le parole che vengono usate più di frequente e adesso con una comprensione maggiore sono relazione nella complementarietà e nella reciprocità. Che cosa vuol dire? Allora, due cose sono complementari, lo dice il vocabolario, quando insieme fanno un'unità, cioè si completano a vicenda. Allora questo cosa può significare nella relazione uomo-donna? Significa che ci si può completare, si può scoprire per esempio che c'è un'intesa su determinati valori, su determinati modi di, sul rispetto reciproco, sulla dignità dell'uno e dell'altro. Complementari, ma nella reciprocità. Nella reciprocità fa leva in modo particolare sulla differenza dell'uno e dell'altro, una differenza di cui tu sei consapevole, devi essere consapevole. Qual è il tuo specifico femminile? Qual è lo specifico maschile? Che poi naturalmente può essere più o meno evidente. Ecco, il rapporto di reciprocità è un rapporto per cui ci si scambia la diversità reciproca. Non so, per esempio, la donna è più portata a vivere le cose attraverso il cuore, anche nella trasmissione della fede, nell'accogliere la fede, la donna ha un atteggiamento che è basato sull'amore, accoglie le cose per amore, lei fa sacrifici per amore. L'uomo ragiona di più e dà meno attenzione a queste cose, anche se ama intensamente anche lui, no? Ecco, allora questo scambiarsi reciprocamente vuol dire tu fai una proposta, dai un aiuto, può essere nel lavorare insieme, tu mi dai un'idea oppure mi correggi in qualche cosa, io devo scambiare qualcosa della mia diversità, ma in positivo, io scambio un'altra idea e così via. E allora questo diventa un impegno. Non so se riesco a spiegarmi, perché bisogna, ecco, io ho cominciato a metterlo in pratica, perché un'altra cosa che mi sembra molto interessante da dire è se veramente lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio guida la storia umana pur rispettando la libertà degli uomini, allora ci dà una mano anche in questo. E una mano in questo può essere, è un paragrafo sempre dell'esortazione Evangelii Gaudium, dove Papa Francesco dice no al pessimismo sterile, no all'accidia egoistica, no alla coscienza isolata, non chiudersi in se stessi, ma aprirsi, aver fiducia nelle relazioni e così via. E poi dice sì alle relazioni generate in Gesù Cristo. Cioè, soprattutto nella Chiesa, nel cammino di fede, ci si incontra non perché siamo nati nella stessa famiglia, ci si incontra perché è lui che ci fa incontrare. Ci si innamora e si fa famiglia perché è lui che ha fatto incontrare la coppia e così via. Ecco, ci sono delle relazioni che oggi come oggi, proprio per aiutarci, io credo, e adesso ho visto che mi stavi guardando, sono 10 anni che lavoriamo insieme io e Don Paolo, mi sono sempre meravigliata come un teologo della sua statura avesse così tanta pazienza di lavorare con me per 10 anni, no? Ma è stata una relazione veramente costruttiva. E quello che più mi colpiva di questa relazione, di questo lavorare insieme, era che in certe cose mi dava fiducia. Ogni volta io pensavo di dover sostenere un esame, chissà che voto mi dà adesso, no? E penso che 500 trasmissioni le abbiamo già fatte insieme, ne facciamo 50 all'anno, no? Però questo appunto incideva, ecco, intendo dire cercare, e se ci capita una relazione di questo tipo, se solo vediamo che c'è un po' di sintonia, sfruttarla, cercare di viverla al meglio, perché diventa un aiuto proprio, un aiuto per conoscersi reciprocamente. Io conosco me stessa attraverso la relazione di reciprocità e l'uomo conosce se stesso. E questo in modo particolare lo dico per chi appartiene alla stessa famiglia, marito e moglie, ma anche padre e figlia, madre e figlio e così via. È un tempo il nostro in cui siamo chiamati alla responsabilità verso il mondo, verso la pace, verso la giustizia, passando per le relazioni fra l'uomo e la donna, costruendoli. Non so cosa pensi di questo, Don Paolo. Maria Rives ha rivelato queste nozze di ferro che ormai abbiamo celebrato 10 anni partorendo queste 500 trasmissioni, ma credo che il tema che hai toccato della fiducia sia molto importante, mentre hai lasciato trasparire ancora un po' di quel vecchio retaggio di complessi di inferiorità che noi uomini siamo riusciti a creare nell'animo femminile. Credevo di dover sostenere degli esami, non mi sentivo all'altezza, invece mi ha dato fiducia. E caspita, adesso cioè, basta però. E anche prima hai detto una sciocchezza, hai detto l'uomo pensa di più, no? È una sciocchezza, giusto? Non voleva dirlo, cioè, no, scappato. L'uomo pensa in un modo più schematico, più razionale, la donna pensa in un modo più immaginifico, simbolico e così via. E sussiste un mito che abbiamo voluto sfatare negli scorsi anni all'Istituto di Scienze Religiose, cioè che la donna sia l'essere dei sentimenti, l'uomo l'essere della ragione, per questo in filosofia non ci sono mai state donne. Noi abbiamo fatto un bel seminario e abbiamo editato un libretto che potete avere all'Istituto di Scienze Religiose per una modicissima spesa, Il pensiero filosofico del Novecento e le donne. E abbiamo parlato di alcune figure di donne che sono dei luminari, parlo solo del Novecento, no? Come Edith Stein, per dirne una, poi religiosa, carmelitana e così via, ma abbiamo avuto tra le altre la Etty Hillesum, personaggio canallievo, Hannah Arendt e la Maria Luisa Muraro, che è venuta in corpo e anima a parlare qui a Bolzano dialogando con la sua ex studentessa Rosetta Infelice Fronza, che da noi insegna da decenni anche la filosofia, una donna che insegna una materia così importante, la filosofia. Non è patrimonio degli uomini la filosofia, il pensiero rigoroso. Non è vero, così come non è vero che la tecnica sia degli uomini, il computer sia degli uomini, il camion sia degli uomini, l'aeroplano sia degli uomini. Astro Samantha ci ha dimostrato che le donne possono spingersi più in alto della maggior parte degli uomini. Nessun trentino le arrivando che le rivada la Sara. E allora cosa è da dire? Vardefio e Vardendo che le rivada la Samantha. Quindi la Samantha ci ha lasciato distanze planetarie, questa donna. Quindi l'astrofisica non è solo degli uomini, viaggiare nello spazio non è solo degli uomini. sfatiamo questi miti, non lasciamoci costringere dentro in delle gabbie, in delle armature forzate, no? Proviamo, sperimentiamo nuovi scenari. Sicuramente avete sentito Papa Francesco con questo stile che Maria Nives ben descriveva di questa sua estemporaneità, che fa venire i patè d'animo ai cardinali e ai suoi collaboratori, no? Ultimamente si dice: perché non ripensare al ministero delle diaconesse? Con esso è una figura molto diffusa nella Chiesa antica, poi andata in disuso, a mio parere, a causa dell'incontro della Chiesa con i popoli che migravano anticamente, noi li chiamiamo i barbari, no? Le migrazioni barbariche hanno causato un regresso della politica del clima ecclesiale. Le donne che erano molto valorizzate sono state rimesse in cucina, nel monastero, dietro le grate e così via. E è un peccato, perché c'era un'evoluzione ben diversa in corso, no? Però non siamo costretti a restare a livello dei barbari, dobbiamo evolverci, dobbiamo non solo dar fiducia alle donne, ma riconoscere che anche la donna ha dei carismi, quindi delle potenzialità spirituali preziosissimi, e bisogna liberare il genio femminile, non sempre ascrivere agli uomini i colpi di genio che sono delle donne. E ricordo, anni fa trassi da internet un testo attribuito a Pablo Neruda, non so se lo conoscete, Lentamente muore, una bellissima riflessione, così via. In internet 70% delle fonti lo attribuiscono a Pablo Neruda, e invece di Marta Medeiros, una giornalista brasiliana, sono dovuto ricercarmi chi fosse, che ha avuto questa bellissima poetica intuizione, così: lentamente muore chi non viaggia, chi non ascolta musica, chi non amore per se stesso, chi non ha il coraggio ogni tanto di rovesciare il tavolo, di non ascoltare i buoni consigli, chi non desidera incontrare persone nuove, chi non accetta domande a cui non conosce risposta. È una cosa geniale. Io lo medito da qualche anno questo testo, e continua a trovarci una profondità estrema, che è la profondità del femminile. Noi maschietti siamo forse più veloci, a volte troppo veloci, sbagliamo un sacco di cose. Le donne vanno spesso più coi piedi di piombo, vogliono capire, questionare. Noi le chiamiamo volgarmente spaccamarroni, perché vogliono tutto bene. Noi siamo invece dei farfalloni che a volte sbagliamo proprio l'approccio, la direzione, perché non ci siamo presi il tempo debito di valutare bene le cose. Quindi uno a uno, palla al centro. Racconta delle testimonianze femminili che ci sono alla fine del libro, perché sono una parte interessantissima. Allora, sono 9 donne, una di queste è teologa e si è riscritta, fanno parte del mio movimento, perché dico, vado con le donne che conosco, insomma, e di cui conosco anche la storia. E questa ragazza, che adesso ha 42-43 anni, ha studiato la Gregoriana e raccontava appunto la sua esperienza, prima di tutto perché ha voluto, ha scelto questa linea, questa direzione. E lei spiegava che il suo primo obiettivo era di capire le ragioni della fede, le ragioni della sua fede. Lei voleva capire, perché non voleva credere così. E sono riuscita a farle dire, perché non lo diceva facilmente, cosa le è costato nei primi anni. E c'è un episodio che racconta che erano intanto pochissime le ragazze alla Gregoriana, sono negli anni 80 circa, no? E i compagni così le guardavano con un sorrisino, e ogni tanto, dice, ci chiedevano di prendere appunti anche per loro, e poi sorridevano. E capite cosa c'è dietro, insomma, no? Chissà se queste sanno prendere gli appunti come... No, è che sapevano che sono più precise le donne, non sfugge nulla. Solo per quello, dici. E a volte anche gli stessi professori le interrogavano di più, tenevano lì molto tempo. Ecco, c'è un'altra storia di una ragazza che adesso fa l'avvocato e è cresciuta all'ombra degli uomini. Prima il padre, fratelli, eccetera, poi fidanzata, insomma cercava di piacere in tutto e per tutto all'uomo, quindi le mancava il senso dell'essere persona autonoma, con una testa sua, con delle, e quando è stata lasciata ha avuto una crisi grandissima, si era accorta che non riusciva a stare in piedi nella vita, per cui ha iniziato questo cammino di fede e nello stesso tempo di emancipazione al femminile, di presa di coscienza della propria realtà. Adesso è responsabile di diversi gruppi di formazione, fa l'avvocato, è molto estroversa, è molto carina. Ci sono donne che sono diventate medico e ce n'è una a Roma che ha incominciato a fare la femminista fin da ragazzina. C'è una donna che invece ha avuto una vita familiare molto dolorosa, perché dopo si è sposata per amore e dopo i primi giorni di matrimonio il marito ha cominciato a manifestare il volto, quello vero, tornare a casa mezzo ubriaco, arrabbiatissimo, picchiarla e tutte cose di questo genere. E lei nel giro di poco tempo, era un'operaia questa, nel giro di poco tempo si è accorta che aveva perso l'amore e però si tormentava perché aveva perso l'amore, cosa faccio? Stava aspettando un figlio e anche lì è venuta la proposta di fare un cammino di fede, sempre in questo movimento. Dico fra parentesi che lo specifico di questo movimento, di questa corrente di grazia, è di permettere di fare un'esperienza proprio di fede, per cui l'azione che lo Spirito Santo compie nella persona che crede e che si lascia toccare è quella di farti sentire che Gesù è veramente vivo. Le promesse di Gesù, io sarò sempre con voi, sono vere, e quindi avviene quell'incontro con il Gesù vivo e risorto che ti suscita la fede, per cui vai dietro a lui, non alle cose che impari di lui. Ecco, allora lei in questa esperienza a un certo punto ha fatto esperienza di sentirsi amata. In un incontro di preghiera lei ha preso coscienza, lo sentiva proprio questo amore. E allora ha dovuto lottare col marito per andare agli incontri, sempre perché lui non voleva, ha preso anche delle botte per non andarci, ma dice io ho tenuto duro e a un certo punto sapete cosa è successo? È ritornato l'amore in lei, ma è ritornato l'amore per il marito in un modo nuovo. Così forte questo amore che è riuscita a convertire anche lui, e io li ho conosciuti e si vede che lei è molto dolce con lui, no? Lui è un po' così, però la segue, non fa lo stesso cammino. Ecco, questo miracolo dell'amore che rinasce è in sostanza io penso di poter dire questo, non credo di azzardare perché insomma lo ricavo dalla mia vita. La Chiesa oggi come oggi, il cristianesimo diciamo oggi come oggi, ha una parola da dire sulla donna e sull'emancipazione della donna, sulla valorizzazione della donna, ha una parola importante, però richiede anche che ci si avvicini con disponibilità di ricerca, di apertura di cuore, cioè io l'ho fatto quasi come una sfida, voglio vedere se è vero, voglio vedere se tu mi puoi aiutare, altrimenti saremo cristiani solo perché battezzati da piccoli, ma non porterebbe nessun frutto. E poi c'è una sorella qui di Merano che è diventata matematica, fa ricerca di matematica all'università e raccontava appunto nel mondo dell'università ci sono molte, c'è competizione con gli uomini, no? E lei si è trovata, oltre che a resistere alla competizione, a diventare un po' la confidente di tutti, aiutarli, a guidarli, perché alla fine l'uomo ha anche bisogno di questo, insomma, non può vivere solo di competizione, di ricerca e basta. Ecco, penso che possa bastare. Forse possiamo sentire se c'è qualche intervento, dando un applauso per venire. Io voglio dire anche una, io sono convinta, da secoli sempre l'uomo è stato il più forte sopra la donna, e la donna insomma timidamente, di più al sud che al nord, ci si accorge. Allora la confidenza è questa, mio marito è siciliano, siamo sposati da quasi 50 anni, quando voi parlavate qua di voi due, 10 anni, beh 50 sono molti di più, insomma a noi è andata benissimo, però all'inizio è stato anche così, e la confidenza è questa: quando è nato il primo maschietto, lui ha mandato il telegramma in Sicilia, no, ai suoi parenti, cosa crede che ci ha scritto? Nato maschio. Io sono, perché è scritto nato maschio, tutto bene, eccetera, perché è scritto nato maschio? Non l'avrei mai comunicato, io non dicevo alle amiche nato maschio. Lui sì, l'ha mandato nel telegramma. Ah, il mio venuto dalle nuvole. Ah, beh, insomma. No, però la vita matrimoniale è andata sempre benissimo. Oggi, l'ultima confidenza, no? Mi accompagni, a parte che avevo un impegno. Ma no, parlano solo di donne. Ecco, andrò a casa e gli racconterò con piacere. Ti sei perso qualcosa, però insomma si riesce a fare l'equilibrio lo stesso meravigliosamente bene. Grazie, che possa andare avanti. Posso raccontare un esempio inverso: a Versa vive la famiglia di un mio confratello che ha studiato con me a Roma, e in famiglia, dopo il primo maschio, dopo il secondo maschio, dopo il terzo maschio, questi genitori volevano assolutamente una femmina. E per fortuna che Filomena è arrivata come settima e poi si sono fermati. Ma finché è arrivata Filomena, si aiuta avanti, volevano a tutti i costi la femminuccia, quindi c'è l'uno e l'altro. Anche da me poi è arrivata la femminuccia, tutto posto. Meno male. Se posso aggiungere un po' su questo filo, così un po' anche umoristico. Io sono la quarta di 6 sorelle. Allora, Maria Nimes, volevo dirti, figurati il mio papà. Già con me, ancora una femmina. E mi ricordo l'ultima nata, la sesta, che allora nascevano anche in casa, no? Qui faccio lì da 9 donne in casa. Mi ricordo che, insomma, subito è stata... anche di una femmina, anche di sporcone, anche di una femmina, addirittura l'avevano trattata male così. E poi una carissima persona, una bella persona, però la storia delle femmine, invece mi è piaciuto moltissimo il fatto di dire delle relazioni che veramente possono diventare una grande ricchezza, vero? Quello sì. Io vorrei sottolineare una cosa, siccome ci sono state però delle confidenze, io posso dire che prima di me ci sono due maschi, finalmente è arrivata una femmina, anche se a casa mia non c'è mai stata differenza tra maschi e femmine, eravamo 5, un fratello è già in paradiso e comunque 3 maschi e 2 femmine. Quindi vengo anche da una famiglia che non ha mai, ha sempre valorizzato e ci ha aiutato a valorizzare quello che siamo. Mi sembra che il messaggio di Maria Nimes sia la parte più importante, che noi donne prendiamo coscienza di quello che siamo. Io ho lavorato nel sinodo, nella sottocommissione, la donna nella società e nella Chiesa, prima la società. Perché siamo donne, la Chiesa fa parte del mondo, non è che perché siamo cristiane siamo separate da quello che è il nostro impegno lì dove siamo chiamati a vivere. E mi piacerebbe che fossimo noi, giorno per giorno, a trasmettere quello che siamo in modo semplice, non come potere, ma come bellezza dell'essere donna vicina alla bellezza dell'essere uomo, perché Dio appunto ha creato la sua creatura, li creò donna e uomo. E questo prendere coscienza è questo anche prendersi la responsabilità. Io, per l'esperienza che ho fatto sempre in ambito educativo, mi sembra che la donna, forse venendo appunto da questa mentalità molto maschilista nella società e nella Chiesa, ha respirato la fatica di essere responsabile, ma anche la poca volontà di essere responsabile, perché essere responsabile, portare la tua responsabilità, significa che devi prenderti il tempo, devi prenderti lo spazio, devi cercare tutte quelle cose, tutte quelle occasioni per far emergere ciò che tu sei, proprio per realizzare il progetto di Dio. Ecco, mi sembrava bello quello che tu hai detto, mi pensa appunto queste due cose che vorrei che viviamo qui, e quindi nella nostra terra, nella nostra società, nella nostra chiesa ci fosse, ecco, un pochino questo. Io spero molto che se dai documenti del sinodo viene quello che noi abbiamo cercato di mettere, quella piccola iniezione che abbiamo cercato di mettere, potrebbe venire un respiro bello, un respiro di donne e uomini che camminano insieme per il bene comune per tutto il mondo, ma insomma viviamo qui, quindi anche per questo, quindi queste due sottolineature, visto che siamo qui, anche un po' mi piaceva dirle, ecco, per... Ma io penso che sia molto importante che, scusate se uso un'espressione giovanile, ci diamo una mossa. In questo senso, per le giovani, la sento una responsabilità per le ragazze, le ragazzine, crescono in un clima dove effettivamente c'è di tutto, però generalmente i giovani nascondono anche quello che provano, sono pieni di paura, hanno dei sogni. Rischiano di smettere di sognare. Io vivo questa mia responsabilità di sentirmi donna e di far tutto quello che posso proprio anche per loro. In loro trovo la forza. Vale anche per i maschi, anche per i giovani, perché appunto vediamo che le relazioni stanno diventando veramente problematiche, violente, perché l'uomo non può vivere senza trovare il senso delle cose che fa, non può vivere senza amore, ne abbiamo bisogno, sia che lo diciamo sia che non lo diciamo. E se noi non lavoriamo su questo, finisce che rapporti di amicizia, di amore, di scambio di bene, di cose buone, di azioni buone, rischiano di finire, diventare un sogno. I giovani alla fine dicono, se questo è il mondo, cosa puoi fare? Però non è questo il mondo, non deve essere questo. Posso? Sì. Prego, no, volevo aggiungere una cosa. È vero che la donna non è presente in tanti ambiti, però è presente in un ambito fondamentale, che è quello della formazione. Il 70% delle donne vanno a scuola. La scuola, quindi ha in mano la generazione di studenti, dei bambini e degli adolescenti, quindi è un mondo prettamente femminile, e lì la donna sicuramente compie i passi migliori. Ecco, visto che lei è stata insegnante per tanti anni alla scuola superiore, volevo sapere, poi all'interno del libro, dice qualcosa della sua esperienza, uccide semplicemente le altre donne di cui parlava prima, ecco, ha inserito qualcosa in merito alla sua attività formativa oppure no? No, nulla. Ho lasciato parlare le altre donne e ho messo, diciamo, il mio lavoro di ricerca. Quello che dico è frutto di quello che ho imparato anche dalla vita. Però condivido con lei che le donne hanno un ruolo, hanno degli ambiti, l'ambito anche della trasmissione della fede nella Chiesa, lì si può lavorare molto, nella scuola la formazione. Dalla mia esperienza nella scuola ho incontrato anche molte insegnanti di quelle non, come dire, non soddisfatte. Non vorrei dire una parola che sarebbe nevrotica, lo dico, insomma, no? Ti danno questa impressione scontente, arrabbiate, e quindi è chiaro che non trasmettono. Le ragazze hanno bisogno di vedere un adulto che sia contento di essere quello che è, no? Pur nella ricerca, pur nella fatica. Ricordo che certi miei alunni, anche al liceo, grandi, alla fine mi dicevano: lei ci insegna a vivere, non ci insegna solo l'italiano e la storia. Effettivamente io a questo davo molta importanza, ma magari senza accorgermene, però c'è bisogno di questo. Io parlando della mia esperienza devo dire che io ho vissuto con grande intensità la vita ecclesiale nel post concilio. In questo periodo direi che creandosi quelle opportunità di ritrovare la Chiesa come comunità, si era iniziato a ritrovare anche questo dialogo, chiaramente tra uomo e donna, e riscoprire la propria identità. Io devo dire che la mia identità di donna l'ho scoperta già allora e me la sono portata dietro. Secondo me c'è stato un momento in cui insieme si è cercato di rivedere la Chiesa dal punto di vista evangelico, rivedere chiaramente il ruolo dell'uomo, il ruolo della donna, la dimensione ecumenica, la dimensione dei mondi altri, culture altre. E poi proprio all'interno della Chiesa io a un certo punto non mi ci sono più trovata, perché ho visto una grande chiusura della Chiesa che si è di nuovo ripiegata su un aspetto più dogmatico che evangelico, e ho lentamente dovuto ritrovare la mia identità di donna cattolica, direi abbastanza da sola o con poche persone con cui avevo condiviso questa esperienza, e questo mi ha permesso di andare avanti. E adesso mi ritrovo di nuovo, sicuramente, cioè non solo oggi ma già da qualche tempo, a rivedere la mia identità di donna cristiana all'interno del mondo. È cambiata molto la situazione, perché all'interno della Chiesa mi ci vedo sì e no, mi sento sempre cattolica, però vedo che ancora all'interno della Chiesa la donna fa fatica a emergere, vedo tante donne serve del prete e basta, se penso alle nostre comunità ecclesiali, per cui il mio spazio lì dentro faccio fatica a trovarlo. Ho trovato altre strade sicuramente, però direi in una dimensione più individuale. Mi sembra che all'interno della Chiesa, se vogliamo parlare di Chiesa, si è smarrita la dimensione comunitaria, e io penso che proprio in questa dimensione comunitaria originaria di cui parlavi anche tu prima, dei primi secoli, si può ritrovare l'identità dell'uomo e della donna, che sono praticamente complementari e si confrontano da pari. Però abbiamo tanta strada da fare, cioè... Sicuramente la Chiesa delle origini si comprendeva più come una comunità di servizio, sì, però, di carismi e così via. Poi piano piano è diventata sempre più una struttura di potere, e allora lì l'uomo ha preso il sopravvento, perché quando si tratta di potere è l'uomo che emerge, no? E stiamo lavorando in questi ultimi anni per rimettere le cose a posto. Si sta molto lavorando per la formazione di uomini e donne, quindi attualmente, per dire, il nostro studio teologico a Bressanone, su 300 studenti che abbiamo, compresi questi di Bolzano, il 75% sono donne. Insegnanti di religione che erano tutti preti e frati, una volta qualche suora, adesso sono quasi tutti donne, quindi c'è uno spostamento di accenti significativo. Sono sempre di più gli ambiti in cui la donna, adesso che riceve anche un'adeguata preparazione, può conseguire dei titoli un tempo riservati al clero, può far valere la sua competenza. Per dire, qualche mese fa c'è stata la successione nella direzione dell'Accademia Cusana di Bressanone, uno delle case di formazione della diocesi, e senza batter ciglio è stata accolta una donna, Patrizia Maior, che prima dirigeva l'ufficio, una sezione dell'ufficio pastorale della diocesi. Ci sono nuovi scenari che si stanno configurando, quindi si sta riprendendo, secondo me, la linea, la traiettoria giusta. Ci vorrà del tempo, ma è importante investire. Papa Francesco dice sempre: il tempo è più importante dello spazio. Non si tratta di occupare sgomitando spazi, ruoli, sedie e così via, no. Si tratta di creare delle dinamiche che nel tempo porteranno a certe figure, a certe situazioni, a certi equilibri nuovi, no? Quindi, secondo me, si è avviata la dinamica giusta. La nostra è una diocesi pilota, siamo sufficientemente lontani da Roma, possiamo permetterci certe cose che più ti avvicini alla centrale più diventa difficile, e stiamo facendo dei passi importanti. Però bisogna lavorarsi, è importante che tutti facciano sentire la propria opinione, è stato detto al sinodo, e parlare con schiettezza, denunciando le cose che non funzionano. Tu dici giustamente la donna serva del parroco, ma io ho visto anche il contrario, i parroci succubi delle perpetue, no? A volte entro una canonica, il parroco stava spazzando in fondo alle scale, compare la virago da sopra e gli urla: zum Kern im Schwolden alten Besen, per spazzare prendere bene la scopa vecchia, non quella di nuova. E non ha detto cretino, perché ha visto che c'era mio vicino, quindi a volte c'è anche una distorsione di ruoli non piacevole. Devo dire che l'ha raccontato qualcosa di lei, perché è un'eccezione. Volete un elenco delle parrocchie dove questo succede? Ve lo do, fate un giro turistico, ve lo do. Io penso che un concetto da sviluppare sarebbe quello proprio della complementarità tra uomo e donna, che io è una cosa su cui rifletto anche nell'ambito della mia esperienza di famiglia. Sposata da 40 anni, io ho visto che i maggiori successi sono scritti fuori proprio quando ognuno dava il proprio contributo complementare all'altro, veniva fuori una cosa nuova che da soli nessuno di due avrebbe raggiunto. E quindi questo mi è sembrato una cosa veramente su cui conviene lavorare. Anziché la concorrenza, il correre insieme, che è ben diverso. No? Sì. Diciamo che in una società come quella di oggi, dove la flessibilità è la parola d'ordine, diventa difficile ma necessario capire fino a che punto la differenza va coltivata e fino a che punto va invece smussata, perché da una parte è vero, ci sono delle differenze e queste ci valorizzano e ci permettono una complementarietà. Dall'altra però la necessità è quella di non vedere troppe differenze e di livellare. Ecco, qui bisogna capire forse anche come muoversi, non è facile, ecco, perché è anche sulle differenze che forse si sono costruiti dei cliché, lo dico così, ecco, dalla mia esperienza di cinquantenne che esce da una situazione di tradizione ma che in realtà ha avuto un'educazione molto aperta, ecco. Dove tra me e mio fratello non c'è mai stata differenza in questo senso, come prospettive, come opportunità, come percorsi o possibilità di scelta. Però dall'altra mi rendo conto che anche noi due abbiamo avuto delle esperienze differenti, ecco, c'è una cartina tornasole poi all'interno di una società, dove ti muovi, le difficoltà che ho avuto io non sono state quelle che ha avuto mio fratello, ecco. Non lo so, sicuramente diverse, sì, sicuramente diverse. Il discorso del potere ancora oggi esiste, cioè il potere comunque è maschile, la donna di, tra virgolette, di potere, o comunque la persona che va avanti nella carriera ed è una donna, non è quella che deve avere le visioni. Cioè tu puoi fare carriera, però è importante che tu non abbia le visioni e sarai sempre comunque la segretaria. Questo è pesante, un pesante attacco all'assessore Stocker, No, anzi, perché siamo anche che sostengono con questi mezzi molto istituzionali, però anche se adesso alle donne viene concesso questa possibilità, perché tutto sommato, dai, non possiamo neanche lamentarci per tanto, però alla fine si vede, no? Allora la donna deve andare le cose precise, la donna deve andare le cose difficili, invece si può spaziare, cioè l'uomo spazia nelle visioni, nel percorso, la linea ve la do io, vi dico dove dobbiamo andare, tutti alleiamo e concorriamo. È un po' nella società c'è questa cosa, e invece mi piace il discorso che c'è un genio, c'è un carisma, perché effettivamente forse è lì che bisogna partire, diverso da quello dell'uomo, ma c'è questa componente di genialità, di visione, che forse a volte dobbiamo avere il coraggio di tirare un po' più fuori, perché magari certe scelte, adesso non vorrei scomodare la finanza creativa inventata dagli uomini, se no mi dicono che sono una femminista, però forse le donne con un po' più di prudenza avrebbero, e qui torna anche il nostro forse comportamento ancestrale, evitato certi guai. Questo non lo dico io, ma ci sono degli studi sociologici che dimostrano che alcuni comportamenti, forse anche nelle alte sfere. E poi c'è il tema io lo declino purtroppo nel mondo professionale, però c'è un tema molto forte che è il tetto di cristallo, quello che noi non riusciamo a sfondare, non solo qui a Bolzano o a Palermo, ma neanche a New York. E neanche, ma forse a Clinton. Non lo so, però gli hanno messo come contrattare Trump, che era tosto, cioè non tosto, ma è proprio il contrattare, l'esatto contrario, è il diavolo della passanza, cioè abbiamo veramente uno che è andato con le donne, che vede la donna di un certo tipo, che ha una moglie che incarna uno stereotipo di un certo tipo, cioè la Barbie, no? Ecco, insomma, la Clinton ne ha un po' ancora dura come strada. Ma cosa potrebbe succedere se Trump veramente Scusate, posso dire a quella bambina che è un'ora e mezzo che è qua, non l'abbiamo neanche senza la mia assistente. Ma guarda, questa è la terza di tre figlie, a proposito di sì. Posso fare un invito a Nives? Mi piace, io ho già letto il libro, quando l'ho letto devo dirti che mi aspettavo le esperienze delle donne, non soltanto di quelle all'interno del movimento del rinnovamento. Mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe un libro che porta le esperienze di donne laiche, di donne anche un po' lontane dalla Chiesa, che vivono la loro vita e sviluppano i loro talenti, che fanno ricerca. Mi piaceva, ecco. Poi ho capito, visto anche che l'edizione è del rinnovamento, ho capito che hai fatto questa scelta. Però mi sarebbe piaciuto, siccome tu scrivi libri, io non sono una che scrive libri, anche se scrivo molto, ma non libri naturalmente, pensaci magari continuare questa ricerca e mettere, oppure sapere come mai. Beh, non potevi. No, il motivo è semplice. Sulla linea del discorso che io volevo portare avanti, volevo trovare degli esempi, delle testimonianze che dimostrassero che è possibile e come è possibile, in modo che aprissero alla speranza. È chiaro che posso, io conosco anche donne laiche che cercano di che portano avanti anche con dei risultati il loro cammino, ecco. Però quelle che conoscevo non erano tanto disponibili. Ma il primo motivo è stato questo: voglio vedere se sono io un'ingenua, sono una sognatrice, oppure se in situazioni diverse, infatti le ho scelte tutte diverse in giro per l'Italia, almeno per quanto riguarda il cammino di fede ti aiuta anche nella tua emancipazione, e quindi ho scelto loro. Adesso ci sono gli uomini che mi stanno chiedendo di occuparmi di loro, vediamo. Ieri sera dicevo, pensando a questo incontro, perché mi dà sempre un po' di stress, dicevo: non scriverò più libri, perché almeno così non li devo più presentare. Fino alla prossima volta. Un applauso a Maria Nina. Adesso con uno squisito pensiero maschilista: donne, andate a cucinare, su, i vostri mariti aspettano la cena. Era una battuta. Buona serata a tutti. Buona serata. È tornato anche il sole, speriamo che duri.